In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Il Falco e il Gabbiano presenta... Chuck si vola, di Enrico Ruggeri. Il grande Lebowski. Nel mondo ci sono circa 7 miliardi di persone, stanno aumentando, mentre parlo stanno aumentando ancora, e ci sono almeno 30.000 religioni, dottrine, credenze, culti tribali, sette. Beh, ci sono le 5 religioni principali, diciamo da un miliardo in su: cristianesimo, islam, induismo, buddismo e la fede taoista. Poi ci sono altre religioni, diciamo considerate minori per numero di seguaci, e poi ci sono gli atei, che in un certo senso hanno una non religione, anche loro insomma ovviamente sono tanti e sono in aumento. Tutte queste religioni, praticamente quasi tutte, hanno in comune una caratteristica: il proselitismo. Tutti cercano di convertire tutti, ecco, forse solo l'ebraismo non ha questo tipo di interesse, però insomma in generale tutti vogliono tirarti dentro. Pensate, l'esempio più eclatante sono i Testimoni di Geova, il movimento religioso, diciamo paracristiano, con i membri che devono obbligatoriamente dedicare del tempo alla predicazione e a suonare i campanelli della gente la domenica mattina. Insomma, è un classico dei Testimoni di Geova. Beh, dico tutto questo perché invece c'è una religione che non ha nessun desiderio di fare proseliti, non vuole aumentare il numero dei propri seguaci, anzi se qualcuno vi aderisce lo fa di sua iniziativa, proprio perché è venuto spontaneamente in contatto con questo credo particolare. E il motivo di questo è che alla base di questa religione non c'è un Dio, c'è un modus vivendi che è la pigrizia. C'è il concetto filosofico del prenderla come viene. Sto parlando del dudeismo. Ascoltate cosa c'è scritto nel Vangelo dudeista. Anche se attualmente ci sono circa 160.000 seguaci dudeisti nel mondo, che la prendono come viene, restano comunque quasi 7 miliardi di persone che non hanno assolutamente idea di cosa siano la Chiesa dell'Avvento del Drugo o il dudeismo. Che la religione che abbiamo fondato abbia il ritmo di crescita più lento del mondo non ci crea alcun problema. Il proselitismo, l'ansia di convertire e di condannare, le persecuzioni, le crociate, le jihad messe in atto dai nostri competitor ci sembrano faticose da morire. Tuttavia, vista la quantità di gente che vive in modo stressato, abbiamo deciso di abbandonare temporaneamente le nostre sante amache e i nostri sacri sofà per illuminare un mondo troppo ansioso che sembra essere uscito di senno, precipitando lungo la via dell'ansia. Per rincorrere una stronzata come i soldi, si perdono le cose fondamentali della vita, come farsi due birre e quattro risate con gli amici. E tutto per schiantarsi anzitempo alla fine della propria esistenza e ritrovarsi a chiedersi: ma cos'è questa puzza di merda? Crediamo che tempi come questi richiedano più che mai di seguire l'esempio di Jeffrey Lebowski. Questo era un brano tratto dal libro Il Vangelo secondo Lebowski di Oliver Benjamin e Dwayne Utsey. Jeffrey Lebowski, o per meglio dire, il drugo, the dude in inglese. Da questo il nome della religione che si ispira alla sua filosofia di vita, il dudeismo. In una parola, l'amico. Il protagonista di oggi è lui. Dedichiamo a lui, al suo stile di comportamento, questa nostra puntata. Uno stile decisamente particolare, e in questa puntata cercheremo di affrontare tutti i temi più cari a lui e a tutti quelli che per amicizia o per affinità di pensiero seguono il suo particolarissimo credo dudeista. Ma chi è Jeffrey Lebowski? Chi è il drugo? Com'è possibile che un personaggio così abbia addirittura ispirato una religione? Cioè, ma non è un Maometto, un Buddha, un Cristo, è un'altra cosa. Beh, intanto bisogna dire che gli insegnamenti del drugo scoraggiano l'aggressività, scoraggiano l'eccesso, la cattiveria, l'inganno, soprattutto scoraggiano la corsa al dio denaro. Quindi in qualche modo vanno vanno a confinare con gli insegnamenti, non so, di Cristo e di Buddha, solo che Cristo e Buddha sono vissuti almeno 2000 anni fa, e il drugo è un nostro contemporaneo, e naturalmente oggi attuare questa filosofia di vita sembrerebbe praticamente impossibile, invece per il drugo non c'è niente di più semplice. Nel lontano ovest conoscevo un tipo di cui voglio parlarvi. Si chiamava Jeffrey Lebowski, o almeno così lo avevano chiamato gli amorevoli genitori. Ma lui non se ne serviva più di tanto. Jeffrey Lebowski si faceva chiamare il drugo. Con drugo erano parecchie le cose che non mi quadravano. E lo stesso vale per la città in cui viveva. La chiamavano Los Angeles, la città degli angeli. A me non sembrava che il nome le si addicesse molto. Però posso dirvi una cosa. Dopo aver visto Los Angeles e vissuto la storia che sto per raccontarvi, beh, penso d'aver visto quanto di più stupefacente si possa vedere in tutti quegli altri posti. E in tutto il mondo. Perciò posso morire con un sorriso, senza la sensazione che il Signore mi abbia fregato. La storia che sto per raccontare è successa nei primi anni 90, nel periodo del conflitto con Saddam e l'Iraq. Ma vediamo di conoscere meglio questo drugo. Allora, ha una quarantina d'anni, è un disoccupato, non ha voglia di lavorare, non ha voglia di far niente, assiduo fumatore di marijuana, accanito bevitore di White Russian, che è un cocktail a base di vodka, caffè e panna. Insomma, lo potremmo definire un santo pazzo che vuole sovvertire il conformismo alla ricerca della verità. Non si capisce bene come faccia a mantenersi. Sappiamo per certo che non paga mai l'affitto, che va in giro vestito come un barbone, che è sempre in bolletta, ma conduce un'esistenza piacevole, rilassata, gioca tutti i giorni a bowling con gli amici. Walter Sobchak, che è il suo compagno di squadra, veterano del Vietnam, temperamento violento, collerico. Poi c'è anche Donny Karabotsis, che è un ex surfista, invece è diverso, è ingenuo, è bonario, con questa vita che scorre così pigramente, cercando semplicemente di evitare il padrone di casa, pagando la spesa con degli assegni postdatati. Questa vita, la vita di questo Lebowski, viene sconvolta perché un giorno due brutti ceffi irrompono in casa sua all'improvviso. Tira fuori i soldi, Lebowski. Voglio quei soldi, Lebowski. Ma mi ha detto di chiederli a te. Tira fuori i soldi, Lebowski. Non fare lo stronzo. Tua moglie deve dei soldi a Jackie Treehorn. Perciò tu devi dei soldi a Jackie Treehorn. Ecco cosa succede a chi non paga i debiti. No, no, non lo fare. Non sul tappeto, accidenti. Vedi? Vedi cosa succede, Lebowski? Nessuno mi chiama Lebowski. Avete sbagliato persona. Io sono Drugo, mi chiamano così. Tu ti chiami Lebowski. E tua moglie è Bunny. Mia moglie? Bunny? Guarda, porto la fede al dito. Questa casa ti sembra quella di un uomo sposato. La tavoletta è alzata, non vedi? Insomma, ricapitoliamo: due aggressori che sembrerebbero gli scagnozzi di un certo Jackie Treehorn, che è uno al quale una tale Bunny deve dei soldi, e questi due evidentemente pensano che Bunny sia la moglie del drugo. Però il drugo non è sposato, non conosce nessuna Bunny e non conosce neanche questo Jackie Treehorn. Insomma, gli aggressori capiscono che devono aver commesso un errore per uno strano caso di omonimia, cioè sono andati dal Jeffrey Lebowski sbagliato, anche perché quello che cercano loro, il marito di questa Bunny, dovrebbe essere un miliardario, ed è evidente che questo drugo non è miliardario, vive in una catapecchia. Però lui ci tiene a questa casa disastrata, teneva molto al tappeto sul quale uno degli aggressori, nel momento delle minacce, ha pensato bene di urinare. Insomma, il drugo è stato aggredito, per sbaglio, ma comunque aggredito, e gli hanno rovinato il suo bel tappeto, ci hanno fatto la pipì sopra. Lui, lo sappiamo, è la quintessenza del dudeismo, quindi lui agisce in base all'autosoddisfazione, in base alla non aggressività. Il suo comportamento ha questo effetto calmante su tutti quelli che entrano in contatto con lui, è un modo di essere che diventa contagioso, rilassa lui. Da benessere e riesce in questo modo a influenzare gli altri, insomma anche i suoi aggressori. Di fronte al suo comportamento calmo, lui non si ribella, non cerca di difendersi, alla fine si rassegnano, accettano l'idea di aver commesso un errore, se ne vanno con la coda tra le gambe. E il drugo però ritiene l'amicizia sacra, va al bullying come fa ogni giorno, racconta l'accaduto a Walter e a Donny. Stiamo parlando di un'aggressione immotivata. Si può sapere di che parla? Dal mio tappeto. Non ti immischiare, Donny, non Walter, è il tuo capo. Walter, non posso presentare il conto al muso giallo che mi ha pisciato sul tappeto. Si può sapere di che cazzo stai parlando? Di che cazzo stai parlando tu? La questione qui non è il muso giallo. Porca puttana, cosa... Quello mi ha pisciato sul tappeto. Ha pisciato sul suo tappeto. Donny, non è il tuo campo, drugo. Il problema qui non è il muso giallo. E qual è? Jeffrey Lebowski. L'altro Jeffrey Lebowski. Il miliardario. Questo è estremamente interessante, interessantissimo. Quello dispone di un sacco di soldi, è evidente. E non c'è una ragione, non c'è una spiegazione al mondo. Ma perché la moglie dovrebbe andare a far debiti a destra e a sinistra? E quelli vengono a casa tua e ti pisciano sul tappeto, mi sbaglio? No. Mi sbaglio? Quel tappeto dava davvero un tono all'ambiente, no? Ti dico di sì. E quello ci ha pisciato. Sai che hai ragione. Dovrei cercare quel fottuto Lebowski, ecco. La moglie lascia debiti per tutta la città e quelli pisciano sul mio tappeto? Pisciano sul tuo bel tappeto. Hanno pisciato sul mio tappeto. Esattamente, Drugo. Hanno pisciato sul tuo bel tappeto. Insomma, il ragionamento non fa una grinza. Loro cercavano un altro Lebowski, evidentemente molto ricco, che però ha la moglie che va in giro a fare debiti. Insomma, adesso questo Lebowski deve risarcire il drugo, cioè l'altro Lebowski, perché gli hanno rovinato un bel tappeto di casa senza che lui avesse colpe. Se lo analizziamo per uno come il nostro Lebowski, è un caso abbastanza complicato. Ricordiamoci che la sua filosofia di vita gli impone di fare il meno possibile. E se il mondo ti prende a calci, dice il dudeismo, tu non reagire, nella maggior parte dei casi un calcio stimola il ciclo vitale. Però c'è questo tappeto che merita una reazione, insomma anche il drugo può impegnarsi quel tanto che gli possa permettere di risolvere i problemi che non possono proprio essere evitati. Insomma, bisogna trovare quest'altro Jeffrey Lebowski, che è ricco, che è sposato con una certa Bonnie, che va in giro a fare debiti, lei, insomma, a Los Angeles va bene tutto, ma non potranno esserci così tanti Jeffrey Lebowski. E infatti questo Lebowski, il nostro drugo, riesce a rintracciarlo e seguendo il consiglio dell'amico Walter va a trovarlo, viene accolto da un assistente molto servile, un certo Brandt, che lo accompagna in una visita guidata di questa abitazione molto ricca, gli mostra le onorificenze appese al muro dello studio e drugo scopre che Jeffrey Lebowski, il suo ricco omonimo, è un disabile ridotto sulla sedia a rotelle da una terribile ferita riportata durante la guerra di Corea, e dopodiché si deve essere prodigato per anni in un impegno civico encomiabile, insomma è diventato un eroe riconosciuto da tutti. E insomma possiamo dire tranquillamente che questi due Lebowski hanno in comune solo il nome. Il drugo è l'esatto opposto, lui è l'antieroe per eccellenza, una vita caratterizzata da una totale assenza di impegno civico, però invece di avvilirsi per il paragone, lui manifesta questo disinteresse beato nei confronti di tutte quelle onorificenze, di tutte quelle ricchezze. Magari anche lui avrebbe potuto fare qualcosa del genere se solo si fosse impegnato di più, e invece ha fumato, ha bevuto tutto il giorno, ha passato il suo tempo al bullying, e però lui sostanzialmente è soddisfatto delle sue scelte, e da questo colloquio un po' fallimentare con il ricco Lebowski lui esce comunque vincente. Bene, signore, lei si chiama Lebowski e anch'io mi chiamo Lebowski. È stupendo. Ma sono molto occupato, come immagino sia lei. Cosa posso fare per lei? Vede, signore, si tratta di questo mio tappeto. Dava veramente un tono all'ambiente. Lo ha già detto a Brent al telefono e lui lo ha detto a me. Io che cosa c'entro? Quei due stavano cercando lei e quindi... Forse non ha sentito. So cosa è successo. Allora, ho urinato io sul suo tappeto? Le ripeto la domanda. Ho urinato io sul suo tappeto? No, è stato voi a pisciare sul mio tappeto. No, io vorrei capire una cosa. Ogni volta che qualcuno mingia su un tappeto in questa bella città, io devo risarcire il proprietario? Andiamo, per la miseria. Le sembro uno che vuole fregare la gente. E nemmeno per sogno. È solo che... È solo in cerca di soldi, come tutti gli altri. Ma vaffanculo. Com'è andato l'incontro con il signor Lebowski? Molto bene. Il vecchio mi ha detto di prendere il tappeto che preferisco. Avete capito com'è il drugo, il vecchio Lebowski? Si è rifiutato di risarcirlo per il tappeto macchiato, gli ha addirittura fatto una predica, gli ha detto che è una nullità, che deve trovarsi un lavoro, che deve fare come ha fatto lui, che nonostante abbia perso l'uso delle gambe in guerra, ha prodotto, ha agito. Ma invece di sprecare energie, magari per polemizzare, per cercare di convincerlo, il drugo chiude la conversazione con un'espressione, diciamo, colorita, poi mente a Brandt, gli dice che il vecchio gli ha dato il permesso di prendersi uno qualsiasi dei suoi tappeti. Insomma, come suo solito, Drugo ha sprecato il minimo delle energie e ha ottenuto il massimo del risultato. Però sta per capitargli qualcosa di inaspettato che gli procurerà parecchi guai, perché sarà coinvolto in qualcosa di più grande di lui. Per una volta sarà costretto a abbandonare la sua proverbiale pigrizia e dovrà venire a capo di una situazione che si rivelerà parecchio complicata. Chuck si vola. Il grande Lebowski. Siamo a Los Angeles nel 1991. Jeffrey Lebowski, il drugo, fannullone, pacifista, fumatore di marijuana, bevitore di White Russian, uomo che conduce una esistenza pigra, piacevole, fatta solo di partite di bowling con gli amici, rifiutando qualsiasi onore, qualsiasi onere, qualsiasi responsabilità che dovrebbe darti la vita, ha improvvisamente la vita, appunto, sconvolta dalla visita di due scagnozzi del magnate del porno Jackie Treehorn. Lo hanno aggredito, gli hanno detto di pagare i debiti di sua moglie Bunny, che avrebbe accumulato appunto dei debiti nei confronti del boss. Però lui non ha moglie, non ha soldi, e i due capiscono di avere sbagliato persona. Lui è omonimo di un certo Jeffrey Lebowski, come lui, anziano miliardario costretto su una sedia a rotelle. E però nel corso della uno dei teppisti gli aveva fatto la pipì per sfregio sul tappeto della sua modesta abitazione. Insomma, lui a questo tappeto ci teneva, diceva che dava tono all'ambiente. Chiede un risarcimento al vecchio Lebowski, dato che era lui che gli aggressori volevano colpire in realtà. Quando riceve il rifiuto a essere risarcito, lui si impadronisce di un bellissimo tappeto della sua collezione e se lo porta via. E mentre si trova a casa Lebowski, lui incontra questa giovanissima moglie del vecchio, quella Bunny, che ha fatto debiti a tutto spiano, che ha innescato tutta la serie di fatti incresciosi. Bunny non è esattamente una moglie devota. Guarda un po'. Soffiaci sopra. Avanti. Soffia. Vuoi che soffi sulle dita? Io non ci posso arrivare. E se poi quello se la prende? A lui non importa niente di niente, è un nichilista. Deve essere faticoso da morire. Tu non stai soffiando. Il nostro ospite deve andare via, signora Lebowski. Tu sei Bunny? Te lo succhio se mi dai $1,000. Che donna meravigliosa! Andiamo pazzi per quel suo spirito libero. Però Brent non può guardare se non mi dà un centone. È meravigliosa. Scusa, vado a cercare un bancomat. E la storia potrebbe finire qui. Qualche giorno dopo, però, il Drugo viene contattato dal vecchio Lebowski, che è disperato perché la moglie Bunny è stata rapita e gli hanno chiesto $1 milione di riscatto. Lui chiede al Drugo di fare da intermediario per la consegna e gli darà $20,000 per il disturbo. Lui va al bullying, vuole parlarne con i suoi amici e li trova alle prese con Jesus Quintana, che è un latinoamericano concorrente contro di loro in questo torneo molto importante per loro, torneo che si terrà di lì a poco. Cazzo di Quintana, quel verme gioca alla grande. Già, però è un pervertito. Sì. Eh? È stato in galera per crimini sessuali, 6 mesi per esibizionismo con una bambina di 8 anni. Ah. Quando si è trasferito a Hollywood per cercare lavoro, l'ha dovuto dire a tutti che è un pederasta. Cos'è un pederasta, Walter? Zitto e vaffanculo, donna. Allora, quanto ti hanno offerto? 20,000 verdoni, amico. E chiaramente posso anche tenermi il tappeto. Solo per fare la consegna? Sì, mi hanno anche dato un teledrin. Così, quando quelli chiamano, io posso... E se c'è la partita? Ah, gli ho detto che se succede durante una partita di torneo... Cosa durante una partita? La vita non si ferma e poi riparte a vostro comodo, miserabili pezzi di stronzi. Io penso Ma che... Ma che gli prenda, Walter? A me sembrano soldi facili, senza rischi. E mi sa che il rapimento l'ha organizzato lei. Eh? Ah, come sarebbe? I pisciatappeti non c'entrano in questa storia. Drugo la vede così. Secondo lui, Bunny ha fatto finta di essere stata rapita per spillare soldi al marito ricco che la sta... tenendo a stecchetto, insomma, e la sua ipotesi peraltro non fa una piega. Convince Walter, che si offre di accompagnarlo alla consegna, gli suggerisce di dare ai malviventi una valigia finta contenente la biancheria sporca, di tenersi $1 milione, visto che tanto Bunny si è rapita da sola. Drugo insomma non è molto d'accordo, perché tutto questo lo spiazza. La sua teoria peraltro è anche una teoria, non una certezza. Comunque la consegna non va a buon fine e i due se ne tornano al bullo con una valigetta contenente appunto $1 milione. Ma ammazzeranno quella povera donna, capisci? Ma che stai dicendo, vaneggi? Quella povera donna, quella povera troia vuoi dire? Si è rapita da sola, l'hai detto tu stesso. No, miseria, ho detto solo che pensavo che l'avesse fatto lei. Sei tu che ne sei così sicuro. Uccideranno quella povera donna, maledizione. E io cosa dirò alle Boschi? Piantala, Drugo, si stancherà del gioco prima o poi tornerà a casa dal maritino. Sta porca puttana, me ne vado. Falla finita, Drugo, che rompicoglione. Drugo! Drugo! Ah, aspetta! Digli semplicemente che abbiamo consegnato il malloppo e che tutto è andato per il meglio. Ah, già, com'è andata? Benissimo, ha solo abbaccato un po' la macchina. Walter, noi non l'abbiamo fatta la consegna, porca puttana! Quelli soldi non li hanno avuti! E adesso sai che faranno? Uccideranno quella povera donna! Uccideranno quella povera donna! Drugo, sai che mi sorprendi? Quelli non ammazzeranno nessuno, non faranno niente. Ma cosa possono fare, stupidi dilettanti? Ma intanto guarda la sostanza dei fatti. Chi è seduto su $1 milione? O mi Walter. Sbaglio? Noi abbiamo $1 milione che ci aspettano nel portabagagli della mia macchina. La tua e loro macchina, che cosa Walter. Hanno in mano? Le mie mutande sporche. La mia biancheria. Di un po'. Dov'è la macchina? Già, la macchina nel parcheggio del bullying non c'è più, l'hanno rubata. Non è che fosse una gran macchina quella del Drugo, era tutta ammaccata, mezza distrutta, però dentro al bagagliaio c'era questa valigetta con $1 milione. Adesso Drugo è veramente nei guai, anche perché peraltro insomma avrete capito che lui è l'unico che in qualche modo ha a cuore la sorte di Bunny, il suo punto debole, diciamo la criptonite di questo antieroe è la sua coscienza. Lui apparentemente è inscalfibile da tutto e da tutti, ma una coscienza ce l'ha. Allora non riesce più a mantenersi distaccato e sereno quando gli altri esseri umani cominciano a stargli a cuore, quando hai la vita di qualcuno nelle tue mani, e tutto cambia. Solo grazie alla sua filosofia, alla sua calma, alla sua capacità di rilassarsi, Drugo riuscirà a modo suo a venire a capo di questa faccenda complicata, ricca di colpi di scena. Chuck si vola. Il grande Lebowski. È entra in scena un nuovo personaggio, Maud Lebowski, che è la figlia di primo letto del vecchio Lebowski. È una miliardaria annoiata, una pittrice d'avanguardia, una agguerrita femminista. Lei contatta Drugo, gli spiega delle cose interessanti, intanto gli mostra un filmino porno prodotto da Jackie Treehorn, dove la protagonista è proprio Bunny, la nuova moglie, e poi gli rivela che in realtà il padre non possiede proprio niente, era la madre quella ricca, la madre di Maud, e Lebowski vive agiatamente grazie a un generoso sussidio che Maud gli passa ogni mese. E a questo punto tutti lo rivogliono questo milione di dollari, ovviamente lo rivuole Maud perché quei soldi, abbiamo capito, sono suoi. Li rivuole anche il vecchio Lebowski, che accusa Drugo di non avere consegnato il malloppo ai rapitori, e poi i soldi li vogliono anche loro, i rapitori, che non abbiamo ancora capito bene chi siano, ma probabilmente sono amici di Bunny e lei probabilmente ha inscenato con loro il rapimento. E poi li vuole anche Jackie Treehorn, il magnate del porno, perché è il creditore di Bunny, e proprio lui, Treehorn, fa prelevare Drugo dai suoi scagnozzi. Gran bella tana, amico, non c'è che dire. Pulita, ben conservata. Che bevi di solito, Drugo? White Russian, grazie. White Russian. Come va il mercato culi tette? Oh, non ne ho idea. Io mi occupo di editoria, spettacolo, appoggi politici. C'è crisi al momento? Sì, hai colto nel segno. Lo standard dell'intrattenimento per adulti è crollato. Stiamo parlando di video. Ormai siamo in competizione con prodotti amatoriali e non ci conviene più investire nello sviluppo artistico, nelle storie valide, nei sentimenti. La gente ha dimenticato che il cervello è la più vasta zona erogena. Parla per te. Approfittiamo però degli aspetti positivi. Le nuove tecnologie ci permettono di fare cose entusiasmanti nel campo del software erotico interattivo. Avanguardia del futuro. Drugo, 100% elettronico. Beh, io mi faccio ancora le seghe a mano. Ah, non ne dubito. E Treehorn droga il White Russian che offre a Drugo mentre è da lui e lo mette fuori uso. Poi fa rovistare da cima a fondo casa sua alla ricerca del milione di dollari che non trova. Poi Drugo si riprende dopo aver fatto un sogno incredibile popolato dal bullying, ispirato dal suo amore per il bullying. Rientra, trova casa sua in condizioni terribili, insomma è stata perquisita da dei delinquenti, però ci trova anche Maud che lo seduce, gli rivela che vuole avere un bambino ma che non ha nessuna intenzione di sposarsi o di avere un compagno fisso. E, insomma, alla fine viene fuori tutta la verità. Bunny era semplicemente partita per un viaggio senza dir niente a nessuno. Allora i suoi amici avevano sfruttato la sua situazione per inscenare un finto rapimento. Il vecchio Lebowski viene informato che Bunny è stata rapita, preleva il milione di dollari, peraltro lo fa prendendoli dalla fondazione di beneficenza creata dalla prima moglie, cioè la madre di Maud, e invece di dare il milione di dollari al Drugo se l'era tenuto per lui. E in pratica dentro la valigetta i soldi non c'erano mai stati, tutti avevano mentito, lo hanno fatto tutti per il dio denaro che sembrano appunto idolatrare a uno tutti loro, tutti tranne il Drugo. Il Drugo è l'unico vero progressista. Non in senso politico, ma in senso esistenziale. Rappresenta uno strappo rispetto agli imperativi emotivi della biologia, della società e di un'ideologia vecchia di millenni, che ha superato di gran lunga la data di scadenza. Mentre tutti gli altri sono infelici, stremati e allo sbando, perché pensano di aver bisogno di una direzione, il Drugo ci mostra come sentirci a casa nel mondo, anche senza avere una destinazione in mente. Come un vecchio monaco taoista, segue la corrente, pur restando perfettamente immobile. E tornati al bullying, Drugo, Walter e Donnie vengono aggrediti nel parcheggio dai finti rapitori, che anche quando vengono smascherati cercano comunque di rapinare i tre amici, si accontentano anche dei pochi spiccioli che loro hanno in tasca, insomma si rivelano per quello che sono, dei poveracci disperati. Questa sarebbe una scena grottesca, quasi divertente, se non accadesse un fatto tragico. Donnie, spaventato a morte dall'agguato, ha un infarto e muore. Donnie era un bravo giocatore. È un bravo uomo. Era un uomo che amava l'aria aperta. e il bowling. Come surfista aveva esplorato le spiagge di tutta la California. Ora è morto. E quindi, nel rispetto di quelle che pensiamo potessero essere le tue ultime volontà, affidiamo queste tue spoglie mortali alle onde dell'Oceano Pacifico che tu amavi tanto. Addio, principino. Mi sono tutto... Oh, cazzo, scusami. È tutta colpa del vento. Per la puttana, Walter. Sei davvero uno stronzo. Drugo, mi dispiace. Con te diventa tutto grottesco, porco mondo. Scusami, Tato. Porco... Dai, Drugo. Fregatene, no? Andiamo al bowling. È la storia incredibile, surreale, del Drugo. Finisce qua. Ci lascerebbe anche un po' d'amaro in bocca, mentre a lui in bocca sono rimaste le ceneri del suo amico. E ci dispiace per la morte senza senso del povero Donny. Però c'è un particolare che alla fine dà significato al tutto. Perché veniamo a sapere che c'è un piccolo Lebowski in arrivo, perché Maude è incinta. Questo in qualche modo ci riappacifica col mondo. Sapere che ci sarà un altro Drugo sulla faccia della terra ci rende il mondo un posto forse più simpatico e piacevole. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud.